personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Avete mai fatto caso che tutti gli eroi e le eroine che incontriamo quando studiamo la storia o quando leggiamo i libri o guardiamo i film, tra tutti quelli che ci rimangono più in mente, quasi sempre sono i più cattivi? E c'è l'eroe positivo, il buono, quello che compie azioni a fin di bene, che generalmente è il protagonista delle vicende raccontate, che generalmente alla fine vince. Però poi quello che non dimentichi mai è il cattivo. Eh sì, perché il cattivo è l'antieroe, a volte è intrigante perché non rispetta la legge, non rispetta le convenzioni sociali, a volte ci capita quasi di invidiarlo, ha delle caratteristiche che lo rendono particolare, può anche cambiare, magari si redime, magari diventa buono nel finale, oppure muore ucciso magari dal buono, però spesso chi scrive è, come dire, più portato a tratteggiare il cattivo nelle sue sfaccettature che non il buono, che magari è un po' più, come dire, monolitico caratterialmente. E poi a un certo punto lo condanniamo, non c'è simpatico, però poi quando perde magari abbiamo dentro di noi un moto di dispiacere. E poi ci sono le sue azioni, che sono quelle che scatenano gli eventi. Senza il cattivo non esisterebbe il buono. La vicenda è interessante perché c'è una controparte, non ci sarebbe mordente. Insomma, il pathos dipende dal cattivo. È proprio il caso del protagonista di oggi, che è il cattivo per eccellenza, uno che non guarda in faccia a nessuno, uno che si serve della violenza, della prevaricazione. È il classico esempio dell'abuso di potere. È un potente capriccioso che usa i soldi, le sue amicizie altolocate, i suoi privilegi di casta, usa tutto per averla meglio sui poveretti che gli capitano a tiro, su quelli che non sanno e non possono difendersi. Oggi il nostro protagonista è Don Rodrigo, un ricco signorotto spagnolo che vive nel Comasco tra la fine del 500 e i primi decenni del 600, e quindi è un periodo nel quale la dominazione spagnola sta spadroneggiando su tutta la Lombardia. Don Rodrigo voleva fare il tiranno, ma non il tiranno selvatico. La professione era per lui un mezzo, non uno scopo. Voleva dimorare liberamente in città, godere i comodi, gli spassi, gli onori di una vita civile. E perciò bisognava che usasse certi riguardi, che tenesse di conto parenti, coltivasse l'amicizia di persone alte, avesse una mano sulle bilance della giustizia per farle, a un bisogno, traboccare dalla sua parte, o per farle sparire o per darle anche, in qualche occasione, sulla testa di qualcheduno. Don Rodrigo è arrivato vicino ai 40 anni, ai tante, è il perfetto specchio del suo tempo, che è un'epoca corrotta dove il debole soccombe sempre e dove i nobili e i ricchi, soprattutto se sono spagnoli, hanno sempre ragione, possono agire indisturbati, non devono rendere conto a nessuno del loro operato. E anzi, è peggio per chi, volente o nolente, debba trovarsi per sua disdetta sulla la loro strada, ed è proprio quello che sta per accadere a un povero curato di campagna, Don Abbondio. La sera del 7 novembre 1628 lui sta facendo ritorno a casa lungo una stradicciola che si sta inerpicando tra le montagne che dominano il lago di Como, e poi a una svolta della stradina, fermi a un bivio, lo stanno aspettando due persone poco raccomandabili, i cosiddetti bravi, che erano delinquenti senza scrupoli, al soldo dei nobili dell'epoca, quelli che facevano il lavoro sporco invece dei loro padroni. Don Abbondio non è quello che si può definire un cuor di leone, anzi è un piccolo uomo, non è nobile, non è ricco, non ha molto coraggio. Fin da quando era ragazzino, insomma, aveva capito di essere un vaso di terracotta che doveva viaggiare in mezzo ai vasi di ferro. In realtà erano anni nei quali si diventava preti anche per sopravvivere, per vivacchiare, per assecondare i desideri della famiglia. Non c'era, come dire, un sacro fuoco accompagnato ai doveri di una professione che doveva difendere la cristianità. Lui sperava così in una generica protezione che gli era, poteva arrivare dal semplice fatto di avere una tonaca. Il suo sistema di vita era quello di scansare i contrasti, cedere quando proprio i contrasti non li poteva scansare. A questi si aggiunge questo incontro e due bravi lo aspettano al bivio e non sembrano scansabili. Ascoltate la ricostruzione di questo episodio nello sceneggiato televisivo dell'89 diretto da Salvatore Nocita, dove Don Abbondio è interpretato dal grande Alberto Sordi. Padre. Eccolo. Signor curato. Sì? Dite a me? Sì? Che comanda? Lei ha intenzione... Lei ha intenzione di maritare domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Ecco, io penso... Loro signori sono uomini di mondo. Sanno bene come vanno queste faccende. I parrocchiani combinano pasticci e poi vengono da noi, così come potrebbero andare ad un banco a riscuotere denaro. Noi siamo al servizio della gente, niente. Orbene, questo matrimonio non sa da fare. Né domani, né mai. Signori, si degnino di mettersi nei miei panni. Se dipendesse da me, vedranno bene che non me ne viene niente in tasca. Troppe chiacchiere. Uomo avvertito, lei ci intende. Ma, lor signori... Signor curato, e l'illustrissimo signor Don Rodrigo, nostro padrone, la reverisce caramente. Don Rodrigo. Ai ai ai, a questo matrimonio non sa da fare, né domani né mai. Questa è la frase che i bravi dicono a Don Abbondio, e lo dicono anche citando il loro padrone Don Rodrigo. E Don Abbondio dovrebbe congiungere in matrimonio questi due ragazzi, che si chiamano Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, ma ha capito benissimo che è nei guai fino al collo, perché Don Rodrigo non vuole che i due si sposino. E bisogna tornare indietro di qualche giorno. Lucia fa l'operaia in una filanda di seta, come la maggior parte delle ragazze che abitano in quelle zone attorno al lago, e incontra sul suo cammino proprio Don Rodrigo, che si trova in compagnia di suo cugino, il conte Attilio. Lucia è molto bella, Don Rodrigo la vede e, come dire, le riserva delle attenzioni. La ragazza naturalmente lo teme, scappa via con gli occhi bassi e sente i due uomini che ridono, e poi sente chiaramente Don Rodrigo dire al cugino: scommettiamo. E quando uno come Don Rodrigo dice scommettiamo, le cose si mettono veramente male. È evidente che Don Rodrigo ha scommesso di riuscire ad avere per sé quella bella ragazza, e certo non si fermerà di fronte a niente pur di ottenere quello che vuole, anche perché è conscio della sua impunità. E non solo, Don Rodrigo ha scommesso con un suo cugino, una scommessa tra nobili diventa una questione di puntiglio che va al di là dell'oggetto della contesa, entra nel campo dell'onore. Non si può fare brutta figura. Naturalmente, quando parlo di onore intendo l'onore che può esserci tra gente di quella specie, che non può cedere di fronte a una scommessa, non vuole sfigurare, non vuole passare per un debole. Insomma, Lucia è nei guai. Don Rodrigo manda i suoi bravi a informarsi e scopre che la giovane sta per sposarsi con Renzo, un operaio della filanda anche lui. Così decide, ma per puro sfizio, decide di impedire quel matrimonio, perché anche lui ha una sua morale, cioè non bisogna toccare una donna sposata, e quindi, siccome la donna non è ancora sposata, bisogna fare in modo che non si sposi. Don Abbondio naturalmente è molto impressionato, direi terrorizzato dalla minaccia dei bravi, e quindi comincia a trovare delle scuse per non celebrare il matrimonio. Naturalmente Renzo Tramaglino ha, come dire, il cuore caldo, non riesce a sopportare una prepotenza del genere, e capisce a un certo punto con chi ha a che fare, cioè è Don Rodrigo, che lo confessa, si lascia scappare il nome e vuole reagire, non accetta intimidazioni. Siccome però naturalmente non è istruito, su suggerimento della madre di Lucia va a Lecco da un avvocato che si chiama Zecca Garbugli e vuole ottenere un consiglio legale. Ma anche l'avvocato, quando sente che di mezzo c'è Don Rodrigo, caccia via il giovane operaio con una forza che direi paragonabile solo alla sua paura di intralciare i disegni di questo signorotto spagnolo. Don Rodrigo è potente e contro di lui ci vuole qualcuno che non lo tema, ma sono pochi quelli che non hanno paura di Don Rodrigo. E qui entra in gioco Fra Cristoforo, che è un cappuccino del convento di Pescarenico, che è legato ai due ragazzi, alle loro famiglie, è il padre spirituale dei due ragazzi. Lucia e Agnese decidono di rivolgersi a lui perché lui è la persona giusta per risolvere questa faccenda intricata. Anche perché Fra Cristoforo è un frate particolare, non è sempre stato un frate cappuccino. Intanto è ricco, cioè figlio di un ricco commerciante. Prima di ricevere la vocazione si chiamava Ludovico, era un giovane scapestrato che conduceva una vita dissoluta. Addirittura durante un duello scoppiato per motivi futili uccide un nobile, viene salvato da un suo servitore di nome Cristoforo che verrà ucciso al suo posto. Queste due morti innescano un processo di conversione, di redenzione, che porterà Ludovico attraverso un travaglio notevole a prendere i voti, a vestire il saio, scegliendo come nome quello del suo servitore morto. Insomma, al di là della conversione, Fra Cristoforo è un frate che mantiene, come dire, una certa imponenza data dalle sue origini. Non è il povero fraticello semianalfabeta sprovveduto che non conosce il mondo, è un uomo consapevole che conserva il carattere vivace del Ludovico che era stato, diciamo, in abiti civili. È un uomo che per cultura, anche per trascorsi di vita, è adatto a trattare con un personaggio come Don Rodrigo. Il palazzotto di Don Rodrigo sorgeva isolato, a somiglianza ad una bicocca. Era più in su del paesello degli sposi, discosto da questo 3 miglia e 4 dal convento. Qui giaceva un mucchietto di casupole abitate dai contadini di Don Rodrigo ed era come la piccola capitale del suo piccolo regno. Bastava passarvi per essere chiarito della condizione e dei costumi del paese. Dando un'occhiata nelle stanze terrene, si vedevano attaccati al muro schioppi, tromboni, zappe, rastrelli e fiaschette di polvere da sparo alla rinfusa. La gente che vi si incontrava erano omacci tarchiati e arcigni, con un gran ciuffo arrovesciato sul capo e chiuso in una reticella. Vecchi che, perdute le zanne, parevano sempre pronti a digrignar le gengive. Donne con certe facce maschie e certe braccia nerborute, buone da venire in aiuto alla lingua. Perfino nei fanciulli stessi, che giocavano per strada, si vedeva un non so che di provocativo. Fra Cristoforo non ha paura di Don Rodrigo, lo considera un suo pari, non ha paura di andare a parlare a casa sua, nel suo covo, lo vuol far ragionare, vuol fargli capire quanto sia sciocca una scommessa fatta ai danni di due poveri ragazzi. E lui è sicuro di riuscire a toccare le corde giuste, e se non le corde del cuore, almeno del cervello, di un uomo che ha così poco da ottenere da un'azione ridicola, capricciosa, priva di senso, priva di tornaconto. Certi uomini di malaffare hanno messo innanzi il nome di Vossignoria Illustrissima per far paura a un povero curato e impedirgli di compiere il suo dovere e per soverchiare due innocenti. Lei può, con una parola, confondere coloro, restituire al diritto la sua forza e sollevare quelli cui è fatta una violenza così crudele. Lo può, e potendolo, la coscienza, l'onore... Lei mi parlerà della mia coscienza quando verrò a confessarmi da lei. In quanto al mio onore, ha da sapere che ne sono custode io. E io solo. E chiunque ardisca entrare a parte con me di questa cura lo riguardo come il temerario che l'offende. Qui avrete riconosciuto il grande Massimo Girotti, Fra Cristoforo, e il grandissimo Luigi Vannucchi, al quale peraltro abbiamo dedicato una nostra puntata, che interpreta Don Rodrigo. E Vannucchi riesce a rendere in maniera straordinaria le diverse sfaccettature del carattere di Don Rodrigo. Fra Cristoforo cerca di far ragionare Don Rodrigo. Questo è un passaggio chiave nella vicenda che stiamo raccontando, perché qui la figura di questo signorotto spagnolo viene fuori in maniera prepotente. Inizialmente sembra quasi prendere in giro il frate, si dimostra superiore, propone una soluzione ridicola della faccenda, poi emerge la vera indole di Don Rodrigo, che si contrappone al frate con la sua arroganza, con la sua violenza. Insomma, padre, io non so quel che lei voglia dire. Non capisco altro se non che ci deve essere qualche fanciulla che le preme molto. Don Rodrigo. Ebbene, Già che lei crede che io possa far molto per questa persona, la consigli di venire a mettersi sotto la mia protezione. Non le mancherà più nulla e nessuno ardirà di inquietarla, ok? Io non sono cavaliere. La vostra protezione. Avete colmato la misura e non vi temo più. Come parli, frate? Parlo come si parla a chi è abbandonato da Dio e non può più fare paura. Lucia è sicura da voi. E in quanto a voi, sentite bene quel che vi prometto. Verrà un giorno in... Escimi tra i piedi, villano temerario, poltrone incappucciato. Ringrazia il saio che ti copre con queste spalle di mascalzone e ti salva dalle carezze che si fanno ai tuoi pari. Esci con le tue gambe per questa volta! Le cose si sono messe veramente male. Don Rodrigo non indietreggia di un centimetro, la decisione è presa, Lucia deve essere sua. Anzi, probabilmente l'arrivo di frate Cristoforo, come dire, lo convince ancora di più, diventa ancora più cattivo. E poi c'è quel frate che si è permesso di parlargli in casa sua come fosse un suo pari. Il suo onore è messo a rischio dall'intervento di un umile prete, almeno secondo il suo modo di pensare. Però quella profezia verrà un giorno, gli torna alla mente, insomma quel frate la deve pagare, vedranno tutti chi è Don Rodrigo. E così dopo lo scontro con Fra Cristoforo arrivano altri eventi che si accavallano tra loro, e cioè Agnese, la madre di Lucia, propone ai ragazzi di organizzare un matrimonio a sorpresa, cioè di comparire d'improvviso davanti a Don Abbondio e di cogliere l'attimo e farsi sposare, e in modo da mettere Don Rodrigo nella condizione di rassegnarsi. Però nel frattempo Don Rodrigo ha comandato al suo bravo, il preferito, diciamo, il suo assistente, il peggiore di tutti, il Griso, gli ha ordinato di rapire Lucia e di portarla al castello. Falliscono tutti e due questi propositi. Il primo fallisce perché Don Abbondio, anche se viene colto di sorpresa da Renzo e Lucia, riesce a impedire loro di formulare il rito dello sposalizio e manda in fumo la cerimonia. Il Griso invece va a casa di Lucia e proprio mentre loro sono da Don Abbondio non le trova e fallisce anche il rapimento. A questo punto Fra Cristoforo propone ai due ragazzi di allontanarsi dal paese fino a che le acque non si siano calmate, spedisce Renzo a Milano al convento dei frati cappuccini, mentre Lucia e la madre Agnese troveranno rifugio sicuro a Monza al convento della terribile suor Gertrude, la signora, la famosa monaca di Monza. Però insomma quello che sta per arrivare non è certo un periodo di soggiorno nella tranquillità dei chiostri di un convento, la loro avventura è solo all'inizio. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è il simbolo per eccellenza di un'epoca corrotta e priva di scrupoli, lo spagnolo Don Rodrigo. È il tipico nobiluomo di provincia che domina incontrastato in un paesotto nelle vicinanze di Como. È prepotente, è sicuro di sé, fa il bello e il cattivo tempo perché ha una posizione sociale di grande vantaggio e conosce persone influenti, persone poco scrupolose che gli garantiscono l'impunità. È molto temuto e peraltro la sua fama di malvagio è alimentata da azioni criminose che lui compie tramite i suoi uomini che vengono chiamati bravi, sono dei delinquenti al suo seguito. E lui ha visto questa giovane e bella operaia tessitrice della seta, questa Lucia Mondella, se n'è incapricciato, non innamorato, se n'è incapricciato, e vuole impedire il suo matrimonio con questo ragazzo, con Renzo Tramaglino, e da qui partono degli eventi tragici per i due fidanzati, perseguitati per il puro capriccio di un potente. E nel nostro racconto siamo arrivati a un momento molto doloroso per Renzo e Lucia, perché devono abbandonare per la prima volta in vita loro il paese nel quale sono nati. Soprattutto per Lucia è un momento tragico, deve dare addio ai suoi amati monti, deve allontanarsi in barca. Addio, monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi familiari. Torrenti, dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche. Ville sparse, biancheggianti sul pendio, come branchi di pecore pascenti. Addio. Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana. E così per Renzo e Lucia inizia un'odissea, un periodo ricco di avvenimenti che mai più i due ragazzi avrebbero pensato di vivere nella loro tranquillità, nella tranquillità del loro paesino. Renzo va a Milano e si trova coinvolto nei tumulti scoppiati in seguito al rincaro del pane e i tumulti che verranno chiamati tumulti di San Martino, perché arrivano l'11 novembre, il giorno di San Martino. Tra l'altro l'11 novembre è anche la data di scadenza della scommessa tra Don Rodrigo e suo cugino il conte Attilio, la scommessa che riguarda Lucia, una scommessa che Don Rodrigo ha perso, e questo fatto non gli va giù per niente, e lui incolpa Fra Cristoforo e decide di punirlo, e quindi il cugino Attilio si rivolge al conte zio, membro del consiglio segreto, per fare, come dire, una controraccomandazione. E in pratica il padre provinciale dei Cappuccini fa trasferire Fra Cristoforo a Rimini, insomma la connivenza malavitosa, così si deve dire, innescata da Don Rodrigo, ottiene un risultato spregevole, perché anche il padre dei Cappuccini non ha coraggio e il frate deve lasciare il suo paese, abbandonando al loro destino i due giovani. È un destino terribile. Intanto Renzo a Milano si fa trascinare dalla folla inferocita che reclama il pane e pronuncia addirittura un discorso pubblico nel quale critica la giustizia che sta dalla parte dei potenti. Lui in realtà non sta parlando del pane, sta parlando del suo caso personale, e naturalmente viene arrestato, riesce a fuggire, si nasconde sotto un falso nome a Bergamo, nel Bergamasco, dove c'è suo cugino Bortolo, ma su di lui sta pendendo un ordine di cattura della polizia. E a Lucia le cose andranno forse ancora peggio, perché lei è nascosta nel convento di Monza e viene accolta con fredda curiosità dalla monaca, da Suor Gertrude, perché la monaca di Monza è una donna molto particolare. Le abbiamo dedicato una puntata, abbiamo raccontato della sua vita, e certamente non esattamente consona a quella che dovrebbe essere l'esistenza di una religiosa. Sappiamo che ha un amante di nome Egidio, lo sciagurato Egidio, con il quale ha avuto diversi figli, vive nell'oscurità dei rimorsi, dei gravi peccati commessi, e nei confronti di Lucia, la monaca, la signora, ha un sentimento contrastante, perché da un lato le fa pena questa ragazza indifesa, perseguitata da questo signorotto potente senza pietà, dall'altro ha un interesse quasi morboso su questa storia. Spesso chiama la giovane a colloquio, le fa delle domande private che imbarazzano la povera Lucia, così ingenua e impreparata a un mondo del genere. Don Rodrigo è già rabbioso per il fallito rapimento di Lucia e viene a sapere che la ragazza ha trovato ricovero nel monastero di Monza, e qui lui va su tutte le furie, cioè il suo desiderio negato lo infiamma ancora di più. C'è, ormai c'è la rabbia, c'è il puntiglio e c'è questo infame capriccio. Lui non può perdere la faccia. S'era preso un impegno un po' ignobile a dire il vero. Ma via, uno non può avere dei capricci. L'importante è soddisfarli. E come usciva ora da quell'impegno? Dando la vinta a un frate e a un villano? Ce n'era di che non alzar più il viso tra i galantuomini o avere sempre la spada in mano. E poi come potrebbe restare in quel paese, dove si porterebbe dietro lo sfregio di un colpo fallito, dove vedrebbe cresciuto l'odio pubblico e scemata la reputazione del potere? Eh sì, la reputazione del potere passa anche attraverso il delitto, attraverso il terrore che riesci a incutere nei tuoi inferiori, nei tuoi sottoposti. Insomma, Don Rodrigo deve per forza ottenere quello che ha scommesso, ne va della sua reputazione, la posta diventa sempre più alta. Capisce che deve farsi aiutare, decide di rivolgersi a qualcuno che di sicuro non gli volterà le spalle, è un signorotto del luogo, al quale lui ha fatto più di un favore, che è in debito con lui. Insomma, tra nobili e potenti ci si aiuta, questo è assodato. Il tipo in questione è per Don Rodrigo interessante per un caso fortuito, perché lui è questo tipo, è molto amico di Egidio, che è l'amante della monaca di Monza. Insomma, tramite questo signore Don Rodrigo è certo di riuscire a espugnare la sicurezza del chiostro, vuole entrare in convento e portarsi via Lucia, e non c'è dubbio, l'uomo giusto è lui, quello che viene chiamato l'innominato. Di costui non possiamo dare né il nome né il cognome, né un titolo e nemmeno una congettura, Possiamo dire che amava fare ciò che era vietato dalle leggi o impedito da una forza qualunque. Voleva essere arbitro, padrone negli affari altrui, senz'altro interesse che il gusto di comandare. Essere temuto da tutti era la sua passione. La sua casa era un'officina di mandati sanguinosi, servitori il cui capo era messo a taglia, che avevano per mestiere di troncare teste. Né cuochi né sguatteri erano dispensati dall'omicidio. Perfino i ragazzi avevano le mani insanguinate. Egli stesso era spaventevole, grande e grosso, calvo, rugosa la faccia. Benché arrivato alla soglia dei 60 anni, il suo contegno, le mosse, la durezza risentita dei lineamenti, il lampeggiar sinistro degli occhi, indicavano una forza di corpo e d'animo che sarebbe stata straordinaria persino in un giovane. Don Rodrigo chiede aiuto all'innominato e ottiene questo aiuto. Il signorotto manda un suo uomo di fiducia, il Nibbio, a Monza e viene compiuto l'atto criminoso, cioè Lucia viene rapita grazie proprio alla complicità della monaca di Monza, che si è affezionata a questa ragazza ma è incapace di rifiutare le richieste dal suo amante Egidio, che ha caldeggiato, diciamo, tutta l'operazione. Insomma, Lucia viene fatta uscire con uno stratagemma dal convento. Il Nibbio la rapisce e la porta al castello dell'innominato. Ma qui accade un colpo di scena, qualcosa di imprevisto, diciamo un colpo d'ala, perché l'innominato sta vivendo una crisi personale, perché è eroso dai dubbi di un'esistenza condotta perpetrando assassini, scelleratezze di ogni genere nei confronti dei più deboli. Ricordiamoci che ha quasi 60 anni, quindi soprattutto per quell'epoca è proprio alla fine della sua vita, quindi evidentemente comincia a spaventarsi e viene colpito profondamente dalla fragilità emotiva di Lucia, che è terrorizzata, che riesce a parlargli lo stesso, lo supplica di liberarla, lo mette di fronte alla propria coscienza, gli mostra un'alternativa alla vita criminale che lui ha condotto fino a quell'istante, gli parla di perdono, di misericordia. Lui comincia a essere lacerato dai sensi di colpa e medita di dare una svolta a questa vicenda. Un colpo d'ala, forse verso il paradiso. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. La notte che segue il rapimento di Lucia è molto intensa, succedono molte cose in quella notte. Intanto l'innominato rivive tutto il suo passato criminoso e viene travolto dai rimorsi, dalla disperazione. Viene a sapere che il cardinale Federico Borromeo è in visita pastorale nella sua zona. Federico Borromeo è un cardinale, come dire, in odore di santità, è un uomo giusto, è un uomo illuminato. E allora l'innominato va a trovare l'illuminato ed esce da questo colloquio sconvolto, decide di cambiare vita definitivamente. Come primo atto di questa sua trasformazione vuole liberare Lucia. Ma lei, Lucia, in quel momento non lo sa ancora, la sua disperazione è al culmine, non sa dove si trova, non conosce il nome del suo carceriere, non conosce le sue intenzioni, capisce che il mandante di questo rapimento è Don Rodrigo e si aspetta che da un momento all'altro qualcuno venga a prenderla per poi consegnarla al suo aguzzino. Lucia è molto religiosa e devota della Madonna e alle prime luci dell'alba, dopo una terribile nottata, la notte più brutta della sua vita, decide di fare un voto. Vergine Santissima, voi a cui mi sono raccomandata tante volte e che tante volte mi avete consolato, voi che avete patito tanti dolori, siete ora tanto gloriosa e avete fatto tanti miracoli per i poveri tribolati. Aiutatemi, fatemi uscire da questo pericolo. Fatemi tornare salva da mia madre. E io faccio voto di rimanere vergine. Rinunzio per sempre a quel mio poveretto, per non essere mai d'altri che il vostro. Lucia fa questo voto, rimarrò vergine e rinuncerò a sposare Renzo pur di non finire nelle mani di Don Rodrigo. E lo fa, poteva aspettare un attimo, perché nel prendere questo impegno, insomma, così poco allettante nella vita, non sa che l'innominato ha già deciso di liberarla, che la affida alle cure del cardinal Borromeo, che ospita Lucia presso due aristocratici milanesi, suoi amici Don Ferrante e Donna Prassede. E la notizia della conversione dell'innominato si diffonde con un grande trambusto, e il fatto del giorno è inaspettato e straordinario. E all'interno di questa, come dire, di questa nobile svolta, c'è la figuraccia che sta facendo Don Rodrigo, perché ci ha provato in tutti i modi con Lucia, ha tentato di averla convincendola di persona, ha provato a rapirla, l'ha fatta rapire dall'innominato, ma non è riuscito nel suo intento criminoso. La ragazza adesso è sotto la protezione del cardinal Borromeo, che è un personaggio alto, non ci si può mettere contro di lui. Insomma, Don Rodrigo sta per essere colpito dal ridicolo e non vede altra soluzione se non lasciare il suo palazzo sul lago e trasferirsi nella sua proprietà di Milano. Qui però a Milano si fa strada una nuova protagonista destinata a diventare l'elemento chiave delle vite dei nostri personaggi. La protagonista è la peste, portata dai Lanzichenecchi, mercenari tedeschi che combattono per la successione al Ducato di Mantova. La peste si diffonde in breve tempo in tutta l'Europa, arriva in maniera massiccia a Milano nel 1630. La città è in ginocchio, ne abbiamo parlato più volte della peste a Milano. Nel lazzaretto finiscono a migliaia. La popolazione milanese, pensate, era di 130.000 persone. I morti di peste arrivano a oltre 60.000. Un milanese su due muore di peste. E anche i personaggi dei quali abbiamo raccontato si ammalano. Renzo e Lucia prendono entrambi il morbo, ma in forma leggera, e riescono a guarire. Anche Don Abbondio si ammala, ma miracolosamente la scampa. L'innominato redento apre il suo castello alla popolazione e si prodiga per aiutare i malati. Insomma, si salvano tutti. Non tutti. Uno non si salva, perché è diverso il destino che attende il nostro protagonista negativo, Don Rodrigo. Don Rodrigo intanto se la passa bene a Milano, accompagnato dal suo fedele luogotenente il Griso. Passa da una festa all'altra, da un pranzo a una cena, insomma ogni scusa è buona per esorcizzare la paura che sta attanagliando tutti quelli che ancora non sono stati contagiati, che vogliono rimanere sani aspettando che l'ondata della pestilenza si sposti altrove. Però insomma, intanto queste feste portano a una promiscuità che in quel momento non sarebbe neanche consigliabile. Una sera ha fatto ridere tutti i commensali con una specie di macabro elogio funebre del cugino Attilio, che era morto un paio di giorni prima. E Don Rodrigo non ha paura di niente, ma torna a casa, ma non sta bene come al solito, ha molta sete, la luce gli procura un male lancinante agli occhi, poi all'improvviso sulla fronte gli spunta un bubbone nero, è il segno inequivocabile del contagio. Chiede aiuto al Griso, e il Griso però, invece di chiamare un medico, avvisa i monatti che accorrono al capezzale del malato per portarlo al lazzaretto. Insomma, il Griso lo tradisce, mentre tutti assieme abbandonano Don Rodrigo al suo destino, lo derubano e si spartiscono le sue ricchezze. Contro i monatti, contro i ministri del tribunale, contro quelli che fanno opera di misericordia. Io vengo finché lo portiamo via. Lasciatemi ammazzare quell'infame, poi fatemi quello che volete. Sta buono. E voi fate le cose da galantuomini. Posso ancora guarire, diavolo d'inferno, posso ancora guarire. Vieni, lo posso, e fuori di sé. Posso ancora guarire. E proprio al lazzaretto di Milano, Renzo, che sta cercando Lucia, incontra frate Cristoforo, che è tornato da Rimini per aiutare i malati. Il frate gli mostra Don Rodrigo che sta esalando gli ultimi respiri e di fronte alla potenza terribile della morte e alla fine misera che l'uomo che gli ha distrutto la vita sta facendo, Renzo trova la forza di perdonarlo per tutto il male che gli ha fatto. Purtroppo anche Fra Cristoforo è stato contagiato dalla peste, ma prima di morire fa in tempo a liberare Lucia dal voto di castità fatto alla Madonna, che non è da considerarsi valido perché compiuto in grave pericolo di vita. Insomma, Lucia e Renzo possono finalmente sposarsi ed è proprio Don Abbondio che celebra le nozze. Naturalmente prima si accerta che Don Rodrigo sia effettivamente deceduto e poi, quando tutto è tranquillo, finalmente fa quello che avrebbe dovuto fare tanto tempo prima. Termina così nel terribile lazzaretto di Milano la parabola di Don Rodrigo, un uomo vile che ha voluto dimostrare del coraggio. Ce ne sono ancora molti anche oggi di personaggi simili. È un debole che ostenta una forza che non possiede, la vittima di se stesso, tiranno della sua degenerazione, assolutamente lontano dai meccanismi giusti e normali della vita, è semplicemente un bambino capriccioso votato al male. Ci sono storie di persone che hanno voluto e saputo dare un colpo d'ala, che hanno volato in alto, e poi ci sono storie di persone che hanno tentato di dare un colpo d'ala, ma votate al male, hanno subito, insomma, quello che ai tempi nessuno poteva dirlo, ma oggi possiamo chiamare tranquillamente il karma. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, oppure al nostro sito radio24.it, oppure venite a cercarmi nei miei social, a cercare tutti noi, insomma, se volete sapete dove siamo. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simone Capodanno, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.